Raffaello, Ademo, Elisabetta. Presente. Bozzini, Emanuela. Presente. Calderon, Clelia e Leo. Presente. De Angelis, Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Anche quest'anno sono state scelte le materie per la seconda prova della maturità, in particolare per i licei. Al liceo classico è stato scelto il greco, al liceo scientifico matematica, al liceo linguistico lingua straniera, al liceo pedagogico pedagogia, al liceo artistico figura disegnata. Per gli istituti tecnici e professionali, per l'istituto tecnico commerciale economia aziendale, per l'istituto tecnico per geometri estimo, per l'istituto tecnico per il turismo lingua straniera, per l'istituto professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione, economia e gestione delle aziende ristorative, per l'istituto professionale per i servizi sociali, tecnica amministrativa. L'anno scorso sono state scelte tracce, credo, chiare, più corte e forse più vicine all'interesse dei ragazzi, l'intenzione è di procedere nella stessa direzione. Conto alla rovescia, allora, per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori. Abbiamo lasciato al ministro della pubblica istruzione Gelmini illustrarvi quali sono le materie per la seconda prova della maturità. Ma oggi parliamo di un fatto molto brutto che riguarda una scuola elementare milanese in via Corridoni. Da settembre in poche settimane si consuma il dramma. Tre bambini si ammalano di leucemia. Fra i genitori, come è comprensibile del resto, è panico. Il dubbio è che ci sia qualcosa che non va nell'edificio. Anche se gli esperti, medici, tecnici, assicurano, sembra assurdo, ma è una pura coincidenza. Ci siamo allora fatti quattro chiacchiere con il preside Angelo Salvo. I bambini sono qua. Sono sereni, per quello che io so anche i genitori sono sereni, perché non ho come dire istanze di nessun tipo, tutti sanno quello che le istituzioni preposte stanno facendo e la cosa più importante è che l'ASL ha preso in mano la situazione. E cosa sta facendo? Allora, ha istituito un gruppo di lavoro e di studio di cui fanno parte ASL, Ospedale San Gerardo, poi il Comune di Milano attraverso i suoi rappresentanti, la scuola, l'ARPA. Sono stati assegnati a ciascuna di queste istituzioni l'incarico di tenere sotto controllo una serie di parti della scuola, di altre scuole, del territorio. Di quindi sostanzialmente stanno monitorando, stanno guardando i materiali con cui è costruita la scuola, cioè, non con solo i materiali, ma anche stanno rilevando, come hanno già in parte rilevato, l'emissione di onde elettromagnetiche, e per la verità hanno rilevato finora un sostanziale nulla di fatto, nel senso che le onde emesse sono a livello del fondo ambientale. Quindi senta, ma lei si sente tranquillo? Sì, io sì. Tranquillo? Perché insomma comunque è già un dramma epocale avere tre bambini malati di leucemia nella stessa scuola. Ma lo sa perché mi sento tranquillo? E perché si sentono tranquilli i genitori? Perché, voglio dire, siccome poi ciascuno può affidarsi anche al buon Dio, però di fatto è la scienza che dice le cose in questo campo e quindi la scienza non è mai riuscita, nonostante 30 anni di studio, e questo non lo dico io ovviamente, lo dicono i luminari che hanno fatto questo incontro e hanno pubblicato le loro ricerche e le hanno raccontate ai genitori della scuola, non hanno mai rilevato un rapporto di causa-effetto tra agenti ambientali e l'insorgere della leucemia. Certo è che invece preoccupa la situazione di Milano in senso lato, tant'è che l'attenzione della mamma della scuola, delle mamme della scuola, si sta spostando un attimo, perché hanno capito, insomma, questo qui è un istituto che è stato messo a nuovo in questo periodo qua, nel senso che ce l'hanno consegnato soltanto a settembre, ma è tre anni che ci lavorano sopra e sono tre anni che ci sono dentro i ragazzi delle scuole medie e non è successo niente. Arrivano le elementari che per tre anni sono stati ospiti altrove e in quattro mesi tre bambini si ammalano di leucemia. Non è credibile. Tutto tranquillo dunque? Lo abbiamo chiesto ad una mamma della scuola, Cristina Massa. Noi siamo stati rassicurati, direi immediatamente dopo, dalle parole dei sanitari del San Gerardo e degli esperti che sono venuti a scuola a fare quell'assemblea rivolta ai genitori. E devo dire che io sono entrata a far parte di questo gruppo di studio costituito dalla SL per appunto indagare una circostanza così, così particolare, non si è mai verificato tre casi di leucemia dello stesso tipo in quattro settimane in una zona così circoscritta. E dicevo, contro ogni evidenza scientifica. Si tratta di bambini delle stesse classi? No, sono di classi tre diverse. Classi diverse, anche di tre età diverse. Diciamo che contro ogni evidenza scientifica si è cominciato a esaminare l'edificio scolastico, anche se, a detta appunto degli esperti, è ragionevole pensare che la causa non risieda lì, anche perché i bambini sono in quella scuola da settembre, noi eravamo dislocati altrove prima perché la scuola era in ristrutturazione, quindi diciamo che ci fosse anche lì una fonte, un'esposizione così ridotta nel tempo non porterebbe comunque a una malattia così grave che possa provocare danni di questa entità. Però ecco, deve essere stato un bel dramma e un bel trauma comunque per voi come comunità scolastica, no? Insomma, beh, è stato un bel trauma perché noi ci conosciamo tutti, beh tutti no, però insomma io conosco bene almeno una delle famiglie coinvolte. È chiaro che è stato un bello shock, e il fatto poi è stato uno shock già il primo caso, perché comunque appunto è una malattia piuttosto rara, non è frequente. E quando poi al ritorno dalle vacanze, pochi giorni dopo, abbiamo saputo che nel giro di una settimana ne erano stati ricoverati altri due, certo che lo shock, chiunque si sarebbe spaventato, però diciamo a mente fredda poi, e con un minimo di rassicurazione da parte di chi ha una competenza specifica sul campo, si è capito che il problema, sì certo la scuola la rivolteranno come un calzino, dopodiché però non si può esaurire lì, perché quando anche non trovassero un bel nulla, abbiamo scoperto che questo tipo di malattia per esempio ha un'incidenza che cresce di anno in anno di circa un 2% a Milano. Come avete spiegato ai bambini tutta questa vicenda? Perché forse avete cercato anche, immagino, di tenerli un po' al riparo, no? Da tutte queste notizie. Sì, dunque diciamo che nelle classi le insegnanti hanno affrontato il problema raccontando che appunto i bambini si erano ammalati, che adesso avrebbero durante un periodo abbastanza lungo di cure, e che questa malattia però fortunatamente adesso si cura, e quindi i compagni poi avrebbero avuto bisogno comunque della vicinanza anche degli amici per riprendersi, per poi riprendere una vita normale. Hanno davanti in effetti un periodo piuttosto lungo di assenza da scuola, perché al di là della terapia poi prima di poter rientrare in comunità passa parecchio tempo, però so che la scuola si sta anche già organizzando per in un secondo momento seguire i bambini anche da casa. Insegna inglese alle scuole superiori, lo fa da decenni e quest'anno ha deciso di andare in pensione. Ha infatti 61 anni e ha maturato tutti i requisiti per farlo. E allora perché raccontiamo questa storia? Perché Lucia Longo di Taranto è una precaria a vita. Non ha vissuto l'ebbrezza del posto di ruolo nemmeno per un attimo. Mi sono proprio stancata di questa storia, allora ho... Io penso che, cioè penso, me ne vado in pensione perché faccio bene, penso che di far bene ad andarmene via. Si è stancata della scuola o si è stancata della sua situazione? Dell'attesa, sì, mi sono stancata della situazione perché non vedo nessuna via d'uscita. Non ce n'è più ormai, a questo punto non ce n'è più, non sarebbe neanche bene entrare ora perché mi rovinerei proprio del tutto, completamente, perché ci sono tutte delle modalità che vengono messe in atto quando una persona entra in ruolo e deve essere giovane, altrimenti insomma non ha senso, proprio non ha senso. Non ha più senso, quindi lei se ne andrà senza aver avuto la soddisfazione di stare a scuola, in cattedra, neanche un giorno da in ruolo. No, ruolo niente, io ogni anno cambio, mi danno io sottoscrivo un contratto che prevede il licenziamento alla fine dell'anno, quindi c'è proprio il diciamo che fine lavoro, fine anno scolastico. C'è quindi il rapporto di lavoro, sì, con lo Stato, insomma, che la paga per gli altri anni. Quindi lei da settembre a giugno è una dipendente dello Stato ed è disoccupata tutte le estati. Da quanti anni? Io ho 28 anni ormai. Sarà un po', no, delusa, forse ci contava che prima o poi ci sarebbe riuscita, invece... Sì, è dal 2000 che io sono praticamente sul piede di, cioè sul punto di entrare, ma non ci riesco perché ci sono scavalcamenti, ci sono insomma cose che non mi quadrano. Effettivamente io non riesco a capire quando arrivo all'ultimo momento perché ci sono tutte queste caratteristiche che mi lasciano, cioè, senza il posto. Secondo lei ha cambiato qualcosa nel rapporto con gli studenti, nel rapporto con le altre insegnanti, questo suo essere sempre precaria? No, con gli studenti sicuramente sì, tantissimo, perché comunque quando si accorgono in maggioranza che io non sono la docente, che l'anno seguente sarà la loro docente, ripeto, alcuni veramente si, cioè, hanno una reazione un po' spropositata, ma come, volte psicologicamente sono veramente, insomma, non vogliono seguire, non hanno interesse, sì, perché tanto comunque, e non le dico poi le famiglie, insomma, anche i presidi, anche i colleghi molte volte, insomma, io sono stata una volta, è stato un collega che poi si è scusato, però mi ha detto: ah, ma sta zitta tu, che quando non sei entrata neanche di ruolo, e quindi, e il preside mi chiama sempre, dice: no, non puoi fare i progetti perché tu hai solamente quest'anno, non si può, e così, insomma, e quindi c'è un rapporto differente. Noi siamo di serie B, non siamo quelli di serie A, facciamo un torneo, un campionato che è di serie B, quindi ci guardano tutti come docente di serie B. Nonostante però noi paghiamo esattamente gli stessi contributi uguali ai loro, i nostri doveri sono sempre gli stessi, le responsabilità sono sempre le stesse, perché io devo stare a scuola, devo fare le cose che fanno gli altri, i diritti invece non mi toccano. Quindi si riposerà adesso quando andrà in pensione, ma insomma con l'amaro in bocca? Beh, amarezza sì, un po'. Beh, adesso che sono diventata un po' famosa, mi sto togliendo qualche rospo dallo stomaco, sto raccontando un po', probabilmente anche il racconto diventa una maniera di condivisione con gli altri. www.radio24.it per riascoltare questa trasmissione, noi ci risentiamo la prossima settimana.